niente, siamo solo una realtà. Quante volte ad un presidio, al concerto, ad un corteo, quei momenti belli e brutti non saranno cancellati. Testa alta e pugni stretti, non saremo calpestati. Testa alta e pugni stretti, non saremo calpestati. Shut up!